Ciao Andrew Barletta, riassumiamo la storia 2012. RK. Nasce nel 2010 il Rapper Clan, un gruppo di scamati che è qua la vanno, un gruppo differente e impassibile, il controllo di questo gruppo è impossibile. Divertimento e serietà, la ricetta di questa pazzia che non va via. Non abbiamo bisogno di armi, abbiamo la forza necessaria per disarmarti. Ti fermiamo come l'interruzione di una canzone, che di certo non è la nostra, perché la nostra non avrà nessuna interruzione. Noi siamo del Rapper Clan, un gruppo di scamati che va in qua e là, non abbiamo bisogno di armi, perché abbiamo la forza necessaria per disarmarti. Non conviene a nessuno mettersi contro di noi, ma fra, se vuoi, siamo più forti di una banda di buoi, ti buttiamo giù come il muro di una catapecchia. Alla fine più la polvere, ovvero la voce, che l'essere leggenda. Noi siamo del Rapper Clan, un gruppo di scamati che va in qua e là, non abbiamo bisogno di armi, perché abbiamo la forza necessaria per disarmarti. Non abbiamo bisogno di rinforzi, perché siamo molto stronzi, siamo scamanati, sì. Se non ci conosci non ti conviene provocarci, non risponderci se non conosci le conseguenze, perché alla fine un'azione è la sua reazione. Noi siamo del Rapper Clan, un gruppo di scamati che va qua e là, non abbiamo bisogno di armi, perché abbiamo la forza necessaria per disarmarti, bro. Ora c'è in Crew Family, Made in Italy baby, nuovo stile più moderno, da ora benvenuto nell'inferno. Senti la base, questa suona in un casino di case, nuovo stile, nuovo ritmo, farà... è tutto legittimo. Ci sentiamo alla prossima, più forte di questa, inizio a fare vita, bestia. C'è in Crew 2012, bye.